Capitolo 12. Pene di cuore. Qualunque fosse il motivo, Lori quell'anno si applicò davvero allo studio e prese il diploma a pieni voti. L'orazione latina la recitò con la grazia di un Phillips e l'eloquenza di un Cicerone, così dissero gli amici. Assistevano tutti, il nonno pieno di orgoglio, la famiglia Marcia al completo. Tutti si congratularono con quell'ammirazione sincera che i ragazzi non apprezzano molto quando ne sono l'oggetto, ma che poi non riscuoteranno più dal mondo nei successi dell'età matura. Devo rimanere per quella benedetta cena, ma sarò a casa domattina presto. Ragazze, mi verrete incontro come al solito? Disse Lori, mentre metteva in carrozza le quattro sorelle March, quando le esultanze della giornata giunsero alla fine. Diceva a ragazze, ma intendeva Joe, che sola manteneva la vecchia usanza e, non avendo il cuore di rifiutare nulla all'amico nel giorno della brillante vittoria, consentì con entusiasmo. Ci verrò, Teddy, o piova o nevichi o tempesti, ti precederò con lo scacciapensieri suonando la marcia trionfale. L'occhiata riconoscente di Lori la mise in pensiero. Oh, povera me, chissà che cosa mi dirà. E allora come potrò fare io? La riflessione della sera e le faccende della mattina dopo calmarono un po' i suoi timori. Era vanità, rifletté, credere che una persona le facesse delle dichiarazioni d'amore quando lei a quella persona aveva fatto capire bene in parecchie occasioni quale risposta avrebbe dato. Sicché, quando giunse l'ora di vedere Teddy, ella sperava che non l'avrebbe costretta a dargli un dispiacere. Una visitina di passaggio a Meg con Daisy ed Amy. Margherita e Damigiana, o lezzo fresco e generosa libazione, la rinfrancò anche meglio per l'incontro imminente. Ma appena apparve in distanza il giovane gigante dal passo trionfante, ella ebbe la tentazione di fare dietro fronte e darsi la gambe. «E lo scacciapensieri?» chiese Lori appena fu a portata di voce. «Me lo sono scordato». E Joe riprese coraggio. Forse egli aveva più voglia di scherzare che di fare dichiarazioni. Quando gli andava incontro in circostanze come quella, infilava il braccio nel suo. Questa volta no, e lui non protestò. Non era buon segno. Egli cominciò a parlare di mille cose. Svoltarono per una scorciatoia che attraversava un boschetto e lui rallentò il passo e rallentò anche la sua eloquenza. Vi fu una pausa pericolosa. Joe, per rompere il silenzio poco rassicurante, cercò di dire subito qualche cosa. Rimani molto tempo? Certo. Il tono della risposta era tanto risoluto che Joe alzò prontamente gli occhi. Lo sguardo che egli le diede dall'alto della sua statura non lasciava dubbi. Il paventato momento era giunto. Ella protese la mano, supplicando. No, Teddy, ti prego, non parlare. Voglio parlare, invece, e tu mi devi stare a sentire. A che serve tirare in lungo, Joe? Facciamola finita, che sarà tanto meglio per tutti e due. Egli era rosso in volto e agitato. Bene, parla. Ti ascolto, disse Jo rassegnata e disperata. Lori era un innamorato poco esperto, ma era innamorato davvero e deciso a farla fuori a qualunque costo. Entrò nell'argomento ex abrupto, con impetuosità caratteristica. La voce, per quanto forza si facesse, siamo uomini per Diana, ogni tanto gli tremava. Ti voglio bene fin dal giorno che ti ho conosciuta, Jo. Non potevo non volertene. Sei stata così buona con me. Ho cercato di dirtelo, ma tu non hai voluto mai. Ora mi devi ascoltare, mi devi dare una risposta. Così non si può andare avanti. Vedi, Lori, io a questo momento avrei voluto risparmiartelo, speravo che tu capissi. Joe non trovava le parole. Era molto più difficile di quanto credesse. Lo sapevo, ma voi ragazze siete così strane. Non si indovina mai. Che intenzioni avete? Dite di no e pensate di sì. E poi vi ci divertite a farci male, a farci perdere la testa. E questo è un fatto innegabile. Io no, non l'ho mai desiderato che tu mi volessi bene a codesto modo. L'ho pensato, sempre la stessa. Ma non ha servito che a farmi innamorare di più. Perché ho studiato tanto? Perché ho smesso il biliardo? Perché ho smesso di fare tutto ciò che non ti piaceva? E ho aspettato, senza mai lamentarmi. Speravo che mi avresti amato, per quanto io non lo meriti. Ci corre. E qui un singhiozzo irreprimibile gli troncò la parola. Fece finta di schiarirsi la voce. E rabbiosamente, con una bacchetta, decapitava i fiori del prato. No, tu lo meriti, anzi, sono io che non ti merito, e perciò te ne sono riconoscente, e mi sento orgogliosa e ti voglio bene, ma amarti come vorresti, no, non posso, non ne capisco il perché. Ho provato, ma non mi riesce, e allora perché dovrei dirti una bugia? Ma è proprio vero, Joe. Tacque e le afferrò le mani, ripetendo la domanda con gli occhi e con uno sguardo che ella non avrebbe dimenticato per molto tempo. È proprio così, caro. Erano entrati nel boschetto e giunti quasi alla barriera. Alle ultime parole che Joe riuscì a strapparsi di bocca, Lori lasciò cadere le mani di lei e si mosse per andarsene. Ma per la prima volta in vita sua, la barriera gli parve alta e non la scavalcò. Restò lì, con la fronte posata sul verde dei licheni, senza fiatare. Joe ebbe paura. Oh, Teddy, se tu sapessi quanto mi dispiace. Vorrei morire, ma non servirebbe. O almeno vorrei che tu non soffrissi tanto. Ma come fare? Tu lo sai, eh? Non possiamo comandarci di amare una persona quando non l'amiamo, assicurò Joe con parole inelegante ma con dolore sincero, mentre con una mano gli accarezzava una spalla. Non era passato molto tempo da quando era stato lui a consolare lei, e Joe se ne ricordava bene. Qualche volta è possibile. Brontolò Teddy senza levar la fronte dal parapetto. Non credo che sia amore vero. Meglio non provare, rispose Joe convinta. Vi fu una lunga pausa. Un merlo cantava allegro da un salice presso il fiume. L'erba alta frusciava al vento. Joe sedette sul gradino della barriera e con molta serietà disse: Lori, devo dirti una cosa. Egli diede un guizzo come colpito da una pallottola, levò il capo ed esclamò furente: Quella cosa no, non me la dire, in questo momento non la potrai sopportare. Quale cosa? Ella chiese, sorpresa del suo tono. Che sei innamorata del vecchio. Quale vecchio? Joe pensò che egli alludesse a suo nonno. Quel maledetto professore. Non parlavi che di lui nelle tue lettere. Se mi dici che ne sei innamorata, io non so cosa farò. E Teddy stringeva i pugni con un lampo di fuoco negli occhi. Le veniva da ridere, ma si trattenne. Anche lei adesso parlava animatamente. Non giurare nulla, Teddy. E poi non è vecchio e non devi maledirlo. È buono, è gentile, è il mio migliore amico. Dopo di te, naturalmente. Ti prego, non ti irritare. Io voglio mantenermi calma e gentile, ma se mi parli male del professore mi arrabbio. Di amarlo non mi passa nemmeno per la testa, né lui né altri. Non lo ami ancora, ma finirà così. E allora che ne sarà di me? Ma tu pure amerai un'altra, da quel ragazzo di giudizio che sei, di questi discorsi non ti ricorderai più. Un'altra? Io? Mai. Non mi scorderò di niente io, non mi scorderò di te, Joe, mai e poi mai. Ah, che cosa ho da fare? Pensò Joe con un sospiro. La faccenda era più difficile di quanto avesse previsto. Ella rispose. Non mi hai lasciato dire una cosa che volevo dirti. Siediti e stammi a sentire. Io ho da dirti una cosa che ti farà piacere, vedrai. Joe sperava di calmarlo con le buone ragioni, e questo dimostra quanto inesperta ella fosse del cuore umano. Allori parve di sentire nelle parole di lei un incoraggiamento a sperare. Si gettò sull'erba ai suoi piedi, puntellando il capo sul gomito, posato sul gradino, e di laggiù levò gli sguardi al volto di Joe, aspettando. Come era naturale, quell'atteggiamento non era tale da ispirarle un discorso calmo e ragionato. Come fare a parlargli con serenità al suo ragazzo che la guardava con quegli occhi pieni di amore e di desiderio e ancora umidi delle lacrime che lei, con la sua inflessibilità, gli aveva fatto versare? Dolcemente, ella gli voltò la testa altrove perché non la guardasse, gli accarezzò i bei capelli ondulati. Quei capelli che si era lasciato crescere per lei, povero Teddy. Vedi, Teddy, anche la mamma pensa come me, che noi due non siamo fatti l'uno per l'altra. Due caratteri troppo vivi, due volontà troppo forti. Saremmo infelici ambedue se facessimo la sciocchezza di. A questo punto Joe si fermò, ma Lori, pronto. Sposarci? Esclamò con trasporto. Dilla pure la parola. E non è vero che saremo infelici. Se tu mi amassi, Joe, io diventerei un santo. Tu di me potresti fare quello che vuoi. No, Teddy, non crederlo. Ho tentato già e non sono riuscita. Non voglio ritentare adesso con una posta al gioco così grossa. È inutile illuderci, non siamo fatti l'uno per l'altra, tu e io, e non ci possiamo cambiare. Perciò restiamo buoni amici sempre, ma guardiamoci bene dalle decisioni avventate e senza rimedio. E invece no, si potrà andare d'accordo benissimo, bisogna provare, si capisce? Brontolava Lori ostinato. Sii un po' ragionevole, considera le cose con un po' di buon senso, implorava Joe, che ormai non sapeva più che argomenti tirar fuori. Ragione? Buon senso? E a che servono? A farti diventare più dura di quello che sei. Tu non hai cuore. Magari non l'avessi. C'era nella voce di Joe un tremito leggero che a Lori pareva di buon augurio. Egli mise nelle sue parole, nel suo tono, tutta la persuasione di cui era capace ed era molta. Ed insisté: Non ci vorrai deludere tutti, cara. Tutti lo sperano. Mio nonno ci si è fissato, non ne ha mai dubitato un momento. E a casa tua pure, e io non so come potrei vivere senza di te. Dimmi di sì, facci felici tutti, te ne supplico, Joe. Soltanto parecchi mesi dopo, ella riuscì a capire come aveva trovato la forza di resistere, di non venir meno al proposito di non accettarlo, quel suo ragazzo. A cui voleva pur bene, di non lasciarsi persuadere a mutar pensiero, a sperare almeno di poterlo mutare un giorno. Ce ne volle molta di forza, ma Joe l'ebbe, perché pensò che ogni indugio era non solo inutile, ma anche crudele, e col tono di chi è giunto a una conclusione immutabile, dichiarò: Senti, non posso dirti un sì che sarebbe una bugia, perciò non te lo dirò mai. Col tempo vedrai che ho ragione io e mi dirai grazie. Grazie un corno! Esclamò Lori, balzando in piedi, ardente di indignazione al solo pensiero. Vedrai, ripeté Joe. Non passerà molto tempo e tu l'incontrerai, la ragazza amabile, piena di tutte le più belle qualità, e che ti adorerà e sarà la padrona ideale per la tua bella casa. Io non potrei. Io sono ordinaria, rude, strana e vecchia. Tu ti vergogneresti di me. Si litigherebbe. Vedi che già anche adesso litighiamo. A me non piacerebbe la società elegante e a te piacerebbe invece. Ti darebbe noia vedermi sempre scribacchiare, io non posso farne a meno. Saremmo infelici insieme, ci pentiremmo, la nostra vita sarebbe un inferno. Hai nient'altro da aggiungere? Chiese Lori sbuffando. Niente. Ah, sì, una cosa. Io non credo che mi mariterò mai. Io sto bene così come sono. E la mia libertà l'amo troppo, non ho nessuna fretta di rinunziarvi per nessun uomo al mondo. Te la dirò io la verità, interruppe Lori. Tu ora pensi così, ma verrà il tempo che amerai qualcuno e lo amerai pazzamente, vivrai e morirai per lui, lo so, ne sono certo io. Sei fatta così tu, e io dovrò stare a guardare. Lori con un gesto disperato sbatté per terra il cappello. Sarebbe stato ridicolo, ma l'espressione del volto era tragica. Questo è vero. Io per quell'uomo vivrò e morrò. Se mai lo incontrerò, l'uomo capace di farsi amare da me a mio dispetto. E tu starai a guardare, sicuro. Joe aveva perso la pazienza ormai e il povero Teddy cominciava a farle meno pietà. Io ho fatto tutto quello che potevo, ma tu non vuoi sentire ragione. È egoismo, in fin dei conti, insistere e insistere per avere ciò che non posso dare. Ti vorrò sempre bene, molto bene, come a un amico, ma sposarti mai. E più presto te ne persuadi, meglio sarà per tutti e due, e non se ne parli più. Queste parole furono come un fiammifero sulla polvere. Lori la guardò un momento come indeciso, e poi le voltò le spalle e disse col tono della disperazione: Ti dispiacerà un giorno di aver parlato così, Joe. Ma dove vai? Ella esclamò spaventata dall'espressione di quel volto. All'inferno! Per un momento il cuore smise di batterle. Egli volgeva i suoi passi verso il fiume, ma per indurre un giovane a far getto della vita ci vuole una gran pazzia, o una gran colpa, o un gran dolore, e Lori non era di quelle creature deboli che si abbattono al primo insuccesso. Non ci pensava affatto al tuffo melodrammatico. Con un movimento istintivo di rabbia scaraventò in fondo al battello il suo povero copricapo e poi la giacca. Quindi saltò nella barca, afferrò i remi e vogò con quanta forza aveva, controcorrente. abbassando i suoi numerosi primati precedenti. Joe allora respirò. Le sue mani, che si erano congiunte, si staccarono. Grazie al cielo, quel povero Lori cercava in qualche modo di scacciare il suo gran dolore. Gli farà bene e tornerà tanto buono, tanto pentito che non avrò il coraggio di parlargli. Così, disse Joe fra sé avviandosi a casa. Si sentiva come se avesse ucciso una creatura innocente e l'avesse sepolta lì sotto le foglie. Adesso, pensò anche, bisogna che vada dal signor Lawrence e lo prepari a essere buono con quel povero ragazzo. Oh, vorrei che si innamorasse di Beth. Forse potrà col tempo, ma io comincio a sospettare di essermi ingannata nei riguardi di lei. Oh, signore, ma com'è possibile per una ragazza desiderare di essere amata e non ricambiare? Mi parrebbe una mostruosità. Sicura che nessuno lo avrebbe potuto fare meglio di lei, Joe si recò diritta dal signor Lawrence e coraggiosamente gli disse come stavano le cose da cima a fondo. Alla fine del racconto pianse amaramente della sua durezza di cuore. Per il buon vecchio fu una delusione crudele, ma non ebbe una parola di rimprovero. Non arrivava a capire come una ragazza potesse non innamorarsi di suo nipote e sperava che Joe avrebbe cambiato idea, ma sapeva anche meglio di lei che al cuore non si comanda. Scosse il capo con tristezza e decise di pensare al modo di impedire che Teddy facesse sciocchezze, giacché le ultime parole di lui a Joe lo facevano stare in pensiero più di quanto ammettesse. Lori tornò stanco morto, ma calmo e composto. Il nonno finse di non saperne niente e per qualche ora poté dissimulare benissimo. Ma la sera, in quell'ora crepuscolare che nonno e nipote passavano di solito tranquillamente insieme, fu ben difficile al vecchio ripetere le solite chiacchiere e ancora più per il nipote sentire gli elogi e i rallegramenti per i suoi esami brillanti e per l'applicazione dell'ultimo anno, che adesso, povero Lori, gli pareva proprio sprecata. Il giovane tenne duro finché gli fu possibile, ma alla fine aperse il piano e si mise a suonare. Le finestre erano aperte. Joe, che passeggiava in giardino con Beth, almeno quella sera sentì la musica e la capì meglio di sua sorella. Era la sonata patetica che Lori eseguì come non l'aveva eseguita mai. Bellissima, non dico di no, ma è triste. Fa piangere. Suona un po' qualcosa di più gaio, figliuolo, disse il signor Lawrence. Il suo vecchio cuore capiva e avrebbe voluto dimostrarlo, ma non sapeva come. Lori pronto attaccò una musica vivace, tempestosa, che continuò per parecchi minuti. Sarebbe andato bravamente sino alla fine se in una pausa non avesse udito la voce della signora March. Joe, vieni, ho bisogno di te. Le stesse parole le avrebbe gridate lui, ma con ben altro significato. Egli perde il segno della pagina, ormai era notte. La musica cessò di colpo con un accordo strepitoso e il pianista rimase lì, all'oscuro, immobile e silenzioso. Non ci resisto più, mormorò il vecchio. Si levò e cercando la via a tentoni andò a posare lievemente le mani sulle spalle ampie di Lori e con dolcezza quasi materna gli disse: Lo so, figliuolo, so tutto. Un istante di silenzio, e poi Lori, a denti stretti, domandò: Chi te l'ha detto? Lei, Joe. Allora è proprio finita. E con una scrollata impaziente delle spalle, Lori allontanò le mani del vecchio. Gli era riconoscente, ma il suo orgoglio maschile non tollerava la pietà di un altro uomo. Non del tutto, disse il signor Lawrence con una dolcezza insolita nella voce. Prima voglio dire una cosa e poi si vedrà se è finita davvero. Tu in questo momento non ci stai volentieri a casa, è vero? E dovrei fuggire? Davanti a una ragazza? Ah no, lei non può impedirmi di vederla e io rimarrò qui finché piacerà a me. Parlava in tono di sfida, ma il vecchio lo interruppe. Ma tu non lo farai, se sei il gentiluomo che ti ho sempre creduto. Anche per me è stata una delusione dolorosa, ma lei non ne ha colpa, credi a me, Lori. La sola cosa che ti resta da fare è di andartene per qualche tempo. Dove andrai? Non importa dove, non importa cosa ne sarà di me. E Lori si levò in piedi con un riso amaro e stridulo che faceva male al povero vecchio. Sì, uomo, e non fare sciocchezze per l'amor di Dio. Perché non faresti un lungo viaggio come era nei tuoi progetti per quando uscivi dal collegio? Non posso. Ma se ne avevi tanta voglia, te l'ho dovuto promettere per farti andare in collegio. Già, ma non doveva essere un viaggio da solo. E Lori misurava la stanza a grandi passi. Per fortuna ormai era del tutto buio e il vecchio non vedeva l'espressione del suo volto. E non ti dico che tu vada solo, c'è qualcuno che è pronto ad accompagnarti, che sarà contento di venire con te anche in capo al mondo. E chi è? Io. Dall'estremità della camera dove si trovava, Lori tornò indietro prontamente con un gesto di rifiuto e di protesta. Sono un grande egoista, ma voi mi capite, è vero, nonno? Se ti capisco, e come, caro figliuolo, ci sono passato anch'io quando ero giovane. E dopo, quando tuo padre... Ora siedi tranquillo e sta a sentire il mio programma. È già stabilito tutto, si può partire anche subito. E mentre parlava il vecchio tratteneva Lori per un braccio quasi temesse di vederselo fuggire come un giorno era fuggito il padre. Bene, dite. E Lori sedette, ma senza il minimo segno di interesse nel volto o nella voce. C'è un affare a Londra che richiede una nostra visita. Avevo stabilito che ci andassi tu, ma se ci vado io è meglio. Qui si può lasciare Brooke a dirigere e le faccende andranno avanti benissimo. Già sono i miei soci che fanno quasi tutto e io ci sto per tenere il posto fino a quando non lo prenderai tu, ma potrei benissimo allontanarmi in qualunque momento. Ma a voi secca viaggiare, alla vostra età poi, come potrei permetterlo? Lori gli era grato del sacrificio, ma qualora si fosse deciso ad andarsene avrebbe preferito partir solo. Il vecchio lo sapeva perfettamente e appunto questo non voleva. In quello stato d'animo non gli pareva prudente lasciarlo senza qualcuno vicino. Fece tacere ogni rimpianto per le comodità della sua casa a cui bisognava dire addio ed esclamò: Ma che diamine, sono poi tanto vecchio? Ti devo dire anzi che più ci penso, più l'idea non mi dispiace. Mi farà bene, anzi, le mie vecchie ossa non ne soffriranno mica, viaggiare è diventata una cosa comoda, sai? Un movimento impaziente del nipote gli fece pensare che il progetto non gli piacesse. Del resto, si affrettò a soggiungere il vecchio, non voglio mica essere un peso, un legame, sai, ci vengo perché credo che tu ne sarai più contento che lasciarmi qui, ma non ho affatto l'intenzione di starti sempre alle calcagna. Ti lascio libero, io andrò a divertirmi per mio conto a modo mio. A Londra e a Parigi ho degli amici e li andrò a vedere. E tu intanto potrai andare in Italia, in Germania, in Svizzera, dove vorrai, e goderti a piacere tuo pitture, musiche, paesi, avventure. Certo, in quel momento per loro il mondo non era che un deserto, meno silenzio, ma certe parole che il vecchio aveva introdotte nell'ultima parte del suo discorso, come a caso, avevano destato nel suo cuore un infranto, un balzo inatteso. Nel quadro del deserto, egli vide apparire d'un tratto le macchie verdeggianti delle oasi, sicché, sempre in tono indifferente, disse: Ah, come volete, per me tutto è uguale dove vado, quel che faccio. Per me no, ricordatelo, ragazzo mio. Ti lascerò tutta la libertà che vuoi, ma tu ne farai buon uso. Promettimelo. Ah, prometto tutto quello che volete. Va bene, pensò il vecchio. Per te è indifferente promettere ora, ma verrà il momento in cui questa promessa ti tratterrà dal fare qualche guaio, o io mi inganno parecchio. Il signor Lawrence era per natura energico e batté il ferro finché era caldo. Prima che il depresso nipote riprendesse tanto spirito da cambiare idea o tirar fuori obiezioni, essi erano già partiti. Nel tempo ristrettissimo che richiesero i preparativi, Lori si comportò come fanno i giovani nelle sue condizioni e fu ora triste, ora irritabile, ora pensoso, perse l'appetito, si trascurò nel vestire e passò molto tempo davanti al piano suonando i pezzi più agitati e strepitosi. Joe la evitava, ma in compenso la guardava dalla finestra con una faccia tragica che lei sognava anche di notte e che anche di giorno le dava un gran senso di rimorso. A differenza di tanti, egli non parlava con nessuno del suo amore sventurato e non permetteva che nessuno, nemmeno la signora March, cercasse di consolarlo o anche solo di mostrargli la propria simpatia. Sotto certi riguardi, quella sua riservatezza fu un sollievo per tutti, ma ciò non tolse che nelle settimane che precedettero la sua partenza regnasse un gran senso di malessere e che tutti dessero una rifiatata quando quel caro figliuolo, poveretto, se ne fu andato per dimenticare le sue pene e tornare poi consolato e contento. Naturalmente questa illusione degli altri egli la indovinava, ma pensassero quel che volevano. Egli passava oltre, sorridendo sdegnoso e tenebroso, dall'alto della sua passione imperitura, della sua fede inalterabile. Quando giunse l'ora della partenza, ostentò morale altissimo per nascondere l'emozione che non bisognava lasciar vedere. Non ci credeva nessuno, ma cercavano di darsi l'aria di crederci, povero Lori. Egli superò benissimo la prova dell'abbraccio della signora March, che gli bisbigliò nell'orecchio la sua tenerezza materna. Quando Lori sentì di non poter più reggere, baciò in fretta l'uno dopo l'altra tutte le persone presenti, non dimenticando Anna che piangeva, e poi scese le scale come uno che scappa da un terremoto. Un momento dopo gli corse dietro Joe per salutarlo con la mano se si fosse voltato. Si voltò, tornò indietro. Le cinse la vita con le braccia. Lei era sul gradino più in alto. Elevandole in volto uno sguardo da commuovere le pietre, le chiese sottovoce. Davvero no, Joe. Vorrei potere, caro. E fu tutto, meno un istante di silenzio. Lori si staccò da lei e disse: va bene, non fa nulla. E fuggì, questa volta sul serio. Ma non andava bene affatto, nemmeno per Joe, e il cuore faceva male a lei pure. E in quel momento che la testa ricciuta di lui si posava ancora sul suo braccio, dopo la risposta dura e sconsolata, ella si sentì come chi abbia pugnalato nel cuore l'amico più caro. Egli non si voltò più indietro, e Joe ebbe la sensazione che quell'ori bambino che se ne andava non sarebbe tornato mai più. Capitolo 13. Il segreto di Beth. Ritornando da New York, Joe rimase stupita del cambiamento che osservò in Beth. In casa non ne parlavano, non pareva se ne accorgessero perché era avvenuto a poco e senza recar sorprese a loro che la vedevano continuamente, ma agli occhi di Joe, dopo un'assenza di parecchi mesi, apparve evidente e sulle prime le tolse dal cuore un gran peso. Beth adesso non era più pallida e si era fatta appena un poco più sottile che in autunno. E tuttavia c'era nel suo volto una trasparenza strana, come se la parte mortale lentamente si andasse affinando, dileguando, mentre quella immortale risplendeva sempre più attraverso il fragile velo della carne, dandole una patetica, indescrivibile bellezza. Joe tutto questo vide. Lo sentì, ma non disse nulla, sebbene la prima lieta impressione perdesse ben presto molto del suo potere. Beth sembrava felice e nessuno pareva dubitare del suo miglioramento, sicché in breve, presa da altri pensieri, Joe dimenticò i suoi timori. Ma partito Lori e tornata la quiete, quella vaga preoccupazione la riprese e non la lasciava più. Confessati i suoi peccati letterari, che le furono perdonati, Joe offerse le sue economie per mandare Beth in montagna. Beth la ringraziò con tutto il cuore, ma non voleva andare troppo lontano. Le sarebbe piaciuto di più tornare ancora per un po' al mare. E siccome non c'era modo di indurre la signora March a staccarsi dai nipotini, fu Joe che accompagnò Beth su quella spiaggia tranquilla, dove poteva stare molto all'aria aperta e dove avrebbe ritrovato un po' del suo colorito. Non era una spiaggia alla moda, ma la gente era buona e simpatica. Tuttavia, le due sorelle vi fecero poche amicizie, poiché preferivano stare fra loro. Beth era timida e non si trovava bene in società, e Jo era troppo assorta nel pensiero della sorella per curarsi di altre persone, sicché vivevano del tutto l'una per l'altra, andavano e venivano fra la gente senza accorgersi dell'interesse e della simpatia che destava una coppia di sorelle, una forte e l'altra debole, sempre strette insieme, quasi sentissero istintivamente, non molto lontana, una lunga separazione. Ma nessuna delle due ne fece parola. A Accade spesso che fra noi e le persone che ci sono più vicine e più care esista un ritegno difficilissimo da superare. A Joe sembrava che un velo fosse caduto fra il suo cuore e quello di Beth. Le sembrava che nel silenzio osservato fino allora ci fosse qualche cosa di sacro, e aveva deciso di aspettare che fosse Beth a romperlo. In quelle poche settimane al mare il velo diventava sempre più trasparente, ma nelle lettere a casa ella non lo diceva. L'aspetto di Beth avrebbe parlato da sé anche troppo. Altro dubbio più tormentoso, la indovinava Beth, la cruda verità? Quali pensieri le passavano per la mente in quelle lunghe ore in cui stava a giacere sugli scogli col capo in grembo a Joe, sotto la carezza benefica del vento in mezzo alla musica delle onde? E un giorno Beth parlò. Joe credeva che dormisse, tanto era silenziosa, e deposto il libro, la scrutava con occhi pensosi, cercandole ansiosamente un segno di buon augurio nel pallore delle gote. Ma nulla ci vedeva che le desse un po' di speranza. Le gote erano emaciate, le povere mani sembravano troppo deboli anche per sollevare le piccole conchiglie color di rosa che avevano raccolte. A Joe ripassò per la mente, più doloroso che mai, il pensiero che Beth a poco se ne andasse. E allora, con un movimento istintivo, le sue braccia si strinsero forte intorno al tesoro più caro che Joe possedesse. Per un minuto gli occhi le si velarono e quando il velo scomparve, Beth la guardava con tale espressione di tenerezza che fu per Joe la completa rivelazione. Joe, mia cara, son contenta che tu sappia. Mi sforzavo di dirtelo, ma non mi riusciva. Joe non ebbe una parola, soltanto le premette la guancia contro la guancia. Non ebbe una lacrima, nemmeno una, perché più era commossa, meno poteva piangere. In quel momento, la più debole delle due era lei. E Beth cercò di confortarla e di sostenerla, cingendole la vita con le braccia e mormorandole all'orecchio: È tanto che lo so, vedi? E ormai che ci ho fatto l'abitudine, non mi fa male pensarci e non me lo farebbe anche se me ne parlassero. Vedi anche tu di prendere la cosa come la prendo io. E non t'affliggere per me. È meglio così, credimi. È meglio. Era questo, Beth, che ti faceva tanto triste prima che io andassi a New York. Allora non pensavi così, è vero? E tacevi sempre. Da parte sua, Joe non lo pensava nemmeno ora che fosse meglio così, e tantomeno lo diceva, ma fu contenta di sapere che nella tristezza di Beth non c'entrasse per niente Lori. Sì. Fu allora che non sperai più, ma non volevo ammetterlo. Cercavo di persuadermi che era la mia fantasia di malata e perciò dovevo evitare di farne soffrire gli altri, ma a vedervi tutti così sani e forti e pieni di progetti per la vita, era ben duro sentire che io non sarei mai stata come voi. E allora, Joe, mi sentii tanto infelice. Oh, Beth, e non me lo dicevi? Non volevi che ti confortassi, che ti aiutassi? Mi chiudevi fuori del tuo dolore. Lo volevi reggere tutto da sola? C'era nella voce di Joe una tenerezza immensa, ma anche un rimprovero. Troppo male le faceva al cuore il pensare alla lunga, tremenda lotta solitaria della povera Beth per arrivare alla rassegnazione, per rinunciare all'amore, alla vita, e prendere di buon animo la sua croce. Forse ho fatto male, Joe, ma l'intenzione era di far bene. Sicura, sicura non ero. Nessuno diceva niente e speravo, chissà, di essermi ingannata. Sarei stato un egoista se avessi fatto paura a tutti proprio quando la mamma era così preoccupata per Meg e tu così felice con Lori. Questo credevo allora. E io pensavo che lo amassi tu, Beth, e mi sono allontanata perché io non potevo amarlo, esclamò Joe, lieta di sapere adesso tutta la verità. Beth fece una faccia tanto sorpresa a quell'idea della sorella che, malgrado il suo dolore, Joe dove sorridere e piano piano le chiese: Dunque è proprio vero? Non eri innamorata neanche tu? E io che lo temevo tanto e pensavo che il tuo povero cuore per tutto quel tempo soffrisse di mal d'amore. dell'amore non ricambiato. Ma Joe, come volevi che me ne innamorassi se lo credevo così preso dall'amore per te? Così parlava Beth nella sua ingenuità ancora infantile. Bene gli voglio anch'io e tanto, come potrei non volergliene, così buono con me, ma non potrà mai essere che un fratello e spero con tutto il cuore che un giorno o l'altro lo sarà. Non per mezzo mio, disse Joe in tono deciso. Ci resta Amy per lui e insieme andrebbero benissimo, ma io a quelle cose per ora non ci penso, non mi importa di nessuno ora, solo di te, Beth. Tu devi guarire, capisci? Devi. Lo vorrei anch'io. Oh, tanto. E mi sforzo, ma ogni giorno che passa mi sento sempre meno forte e sempre più certa che non ritornerò mai più com'ero. È come la marea, Joe. Quando la corrente cambia, va adagio, ma non si ferma. Si deve fermare. Non deve cambiare così presto. Per te, 19 anni è troppo poco. Non posso lasciarti andare. Lavorerò, pregherò, lotterò, ti tratterrò con noi, malgrado tutto. Ci deve essere qualche maniera. Non è possibile che già sia troppo tardi. Iddio non vorrà essere tanto crudele da toglierti a me. Esclamava la povera Joe. Lei si ribellava, non aveva l'anima rassegnata e pia di Beth. Le anime semplici e sincere è raro che parlino molto della loro pietà. La mostrano con le opere, più che con le parole, ed è più efficace che le professioni di fede e le proteste. Beth non sarebbe stata capace di spiegare la propria fede, quella fede che le dava il coraggio e la pazienza di rinunciare alla vita e attendere serena la morte. Come un bimbo che ha fiducia nei genitori, non chiedeva perché. Lasciava tutto a Dio e alla natura, padre e madre di quanti siamo. Sentiva che sono loro e loro soli che possono darci nel cuore e nella mente la forza che ci vuole in questa vita e nella vita futura. Per la ribellione di Joe non ebbe parole di rimprovero, non fece prediche, soltanto le volle più bene per quell'amore appassionato, umano, perché il nostro Padre Celeste non vuole che noi ce li strappiamo dal cuore gli affetti umani, ma di essi intende servirsi per attirarci meglio a sé. Ella non poteva dire «son contenta di andarmene». No, l'amava anche lei, la vita. Tutto ciò che poteva fare era di ripetere fra i singhiozzi «cercherò di accontentarmene» e stringersi alla sorella ora che un'ondata di dolore passava sopra ad ambedue. Qualche tempo dopo, Beth, rassicurata un poco, domandò «lo dirai a casa?» «Credo che lo vedranno». Senza dirglielo, sospirò Joe. Adesso le pareva di vedere Beth peggiorare da un giorno all'altro. Forse, ma vedi, ho sentito dire che quelli che ci vogliono più bene alle volte sono i più ciechi per certe cose. Se loro non se ne accorgono, glielo dirai tu per me. Non voglio tenere nascosto niente, ed è meglio che siano preparati. Meg a John e i bambini che la confortano, ma al babbo e alla mamma devi pensarci tu, Joe. Se posso. Ma vedi, Beth, io ancora non ti ho perduta. Lo credo ancora che sia una fantasia di malata la tua. Non voglio nemmeno che lo pensi. Joe cercava di darsi un tono allegro. Beth tacque un momento, pensando, e poi, con quel suo tono calmo e soave, disse: Non so come esprimermi. E con un'altra persona non mi proverei, perché con nessuno saprei parlare apertamente come con la mia Joe. Vorrei dire che non è destino, non è mai stato destino che io avessi una vita lunga. Vedi, io non sono come voi altre, non ho mai fatto progetti per quando sarò grande, non ho pensato a maritarmi come ci avete pensato voi tutte. Mi pare di non aver mai concepito me stessa se non come la piccola Beth. Una povera sciocchina buona a nulla che va trotterellando per la casa. Mai ho sognato di lasciare la mia casa e tutto quello che rimpiango adesso che so è che debbo lasciare voi. Non è paura, ma è come se dovessi avere la nostalgia della casa e il rimpianto di voi, anche in paradiso. Joe non poteva parlare. Per qualche minuto non si udì che il sospiro del vento e lo sciabordare della marea. Passò un gabbiano dalle ali bianche, col riflesso del sole sul petto argenteo. Beth lo stette a guardare finché si perse lontano, e i suoi occhi erano pieni di tristezza. Un uccellino grigio venne innanzi con le lunghe zampe sul lido, pigolando sommesso come se parlasse da solo e si godesse quel sole e quel mare. Si spinse vicinissimo a Beth, la guardò con l'occhietto nero e amico e si fermò sopra una pietra scaldata dal sole a rimettersi in ordine le piume bagnate, come se non ci fosse nessuno. Beth sorrise. E si sentì confortata. Le pareva che quella creaturina le offrisse la sua piccola amicizia e le ricordasse che esisteva ancora un mondo che è bello e che si può godere. Carino, guardalo, Joe, com'è domestico. Questi gambettini mi piacciono più dei gabbiani. Non sono belli e selvaggi, ma hanno l'aria di piccole creature felici e piene di fede. L'anno scorso li chiamavo gli uccellini miei e la mamma diceva che le ricordavano me, sempre in faccende, grigi e modesti nella loro veste da quaccheri, sempre vicini alla riva, a pigolare, contenti la loro canzoncina. Il gabbiano sei tu, Joe, forte e selvaggia, che ti trovi bene nella tempesta e nel vento e voli al largo, sola e felice. Meg, invece, è la tortora. E Amy è come la lodoletta di cui scrive, che si lancia su fra le nuvole ma ricade sempre a terra nel suo nido. Cara, ambiziosa, sì, ma tanta tenerezza nel cuore, tanta bontà. E per quanto voli in alto, la casa non la scorda mai. Spero che la rivedrò, ma è tanto lontana. Tornerà a primavera, e per allora voglio che siamo tutti pronti ad accoglierla e a godercela. Voglio che tu sia rosea e paffuta per allora, disse Joe. Le pareva che, di tutti i mutamenti che osservava in Beth, il più grande era nel modo di parlare. Ora sembrava che non le costasse più uno sforzo pensare ad alta voce. Che differenza dalla Beth imbarazzata e timida di una volta. Joe, cara, lascia andare la speranza. Non serve a niente, lo so io. Non ci affliggiamo. Cerchiamo di goderci la compagnia reciproca finché si può. Avremo ancora giorni felici perché io non soffro poi tanto e spero, con l'aiuto vostro, che la marea scenderà senza turbamenti. Joe si chinò a baciare il caro volto sereno e con quel bacio, senza parole, si dedicò a Beth interamente. Non si era ingannata. Non ci fu bisogno di spiegazioni a casa. Il babbo e la mamma lo videro subito ormai, quello che nelle loro preghiere avevano sempre chiesto al cielo di non dover vedere. Stanca del breve viaggio, Beth si dovette mettere a letto. Era molto contenta di essere a casa. Quando Joe discese dai genitori, subito si accorse che il duro compito di svelare loro il segreto di Beth le sarebbe stato risparmiato. Il padre posava la testa sul caminetto e quando Joe entrò non si voltò. La mamma, invece, tese le braccia come per chiederle aiuto e Joe vi si gettò, senza dir nulla.